Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Prima puntata. A Pino Catalano e a Saro Montaperto, giovani geometri debitamente disoccupati come geometri, ma assunti in qualità di operatori ecologici avventizi, il caposquadra della Splendor, la società che aveva in appalto la nettezza urbana di Vigata, assegnò il settore detto La Mannara, perché in tempi immemorabili pare che un pastore avesse usato tenervi le sue capre. I due erano stati assunti in seguito al generoso intervento dell'onorevole Cusumano, per la cui campagna elettorale si erano battuti corpo e anima. La Mannara era un largo tratto di macchia mediterranea alla periferia del paese, che si spingeva quasi fin sulla Pilaia, con alle spalle i resti di un grande stabilimento chimico inaugurato dall'onnipresente onorevole Cusumano, quando pareva che forte tirasse il vento delle magnifiche sorti e progressive. La Mannara, fino a qualche tempo prima, aveva rappresentato per quelli che allora poco nobilmente si chiamavano munnizzari un travaglio di tutto riposo. In mezzo a fogli di carta, buste di plastica, lattine di birra e di Coca-Cola, ogni tanto spuntava uno sperso preservativo. Da un anno a questa parte, però, i preservativi erano un mare, un tappeto, da quando un ministro dal volto buio e chiuso, degno di una tavola lambrosiana, aveva estratto un'idea che subito gli era parsa risolutiva per i problemi dell'ordine pubblico nel sud: inviare in Sicilia alcuni reparti militari a scopo di controllo del territorio. Pino e Saro si avviarono verso il posto di lavoro, ammuttando ognuno il proprio carrello. Per arrivare alla Mannara ci voleva una mezz'orata di strada, se fatta per elento, come loro stavano facendo. Il primo quarto d'ora se lo passarono mutangheri, già sudati e impiccicaticci. Poi fu Saro a rompere il silenzio. Opi! Cos'è che ti dico? Il nostro caposquadra, quello stronzo di Pecorilla. E magari un cornuto. Grandissimo. Quello ci odia perché siamo diplomati, hai capito? Ma per forza, riuscite a prendere la terza media a 40 anni solo pagando. E noi che siamo diplomati geometri ci vanno a pulire questo posto schifoso. Cornuto. Grandissimo. Guarda che c'è. Senti, ma Piccinetto come sta? Ma come sta, Pino? Sempre lo stesso. Di giorno pare che la febbre scende, di notte ritorna a salire. 39 e mezzo. Poverana, ma sta patendo, non fa altro che piangere. Ma non ti preoccupare, cose di bambini sono, poi passa. Non passa, Pino, non passa. È un anno che giro ospedale qua attorno. Niente, me lo devo portare lontano da questo paese, dove nessuno capisce niente. C'è bisogno di un dottore bravo. Ma come si fa? Ci vogliono i piccioli, tanti piccioli. Va bene, va. Io comincio qua e tu cominci va giù. Saro, arrivato a tiro di un viottolo che costeggiava il muro di protezione e che immetteva nella strada provinciale, vide che a terra c'era qualcosa che violentemente sparluccicava. Era un ciondolo a forma di cuore, enorme, tempestato di brillanti e con al centro un diamante grosso assai. C'era ancora infilata la catena per tenerlo al collo, d'oro massiccio, rotta in un punto. La destra di Saro scattò, si impadronì della collana e gliela mise nella sacchetta. Pino, che s'era scelto il tratto di Mannara più vicino all'arenile, a un tratto s'addonò del muso di un'automobile che a una ventina di metri di distanza spuntava da una macchia più spessa delle altre. Si avvicinò ancora e finalmente vide la sagoma confusa di un uomo, immobile, allato al posto di guida, la testa appoggiata all'indietro. Pareva calato in un sonno profondo. Saro! Saro! Che c'è? Che cazzo? Ora vecchio. sporgendosi e graffiandosi sui rovi, riuscirono a vedere meglio la faccia dell'uomo. Non dormiva, aveva gli occhi aperti e fissi. Pino e Saro aggelarono di scanto, di spavento, non per la vista della morte, ma perché avevano riconosciuto il morto. È morto. Lo riconosci chi è? E mi pare di starmi facendo una sauna. Ora una botta fredda, ora una botta calda. Allora che facciamo? Lo avvisiamo l'onorevole Cusumano o no? Aspetta, pensiamoci un attimo. Scusa, tanto tu, tanto io, sappiamo che l'onorevole è un pupo nelle mani dell'ingegnere Luparello. E invece è, anzi, era tutto. Morto Luparello, Cusumano non è noto. Vero, che ci chiamava a fare? E allora? Allora niente. Rizzo. Rizzo? Io a quello non lo conosco. E manco io. Il numero di Rizzo, Saro l'aveva nell'agendina. Rizzo rispose al primo squillo. Pronto? L'avvocato Rizzo? Sì, sono io. Scusasse, avvocato, se la disturbo l'ora che è. Ma abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. A noi ci pare morto. E perché lo venite a contare a me? Come? Per lei non è il suo migliore amico? Vi ringrazio, ma prima di tutto è necessario che facciate il vostro dovere. Buongiorno. Quando Montalbano trasì nel letto, Livia gli si impiccicò di schiena e non si sottrasse alle carezze, anzi. Montalbano si ricordò che lei una volta gli aveva sussurrato all'orecchio che le piaceva essere sempre un pochino forzata. Allora, eccitato, le agguantò con violenza i polsi e le allargò le braccia fino a farla parere crocefissa. Si tagliarono un attimo, ansanti. E proprio in quel momento il telefono squillò. Pronto? Buongiorno, Fazio sono, commissario. Abbiamo un cliente. E chi è? No, veramente ancora non lo sappiamo. Come l'hanno ammazzato? No, non sappiamo neanche questo. A dire il vero non sappiamo neanche se è stato ammazzato. Fazio, ma fammi capire, tu mi chiami senza sapere una minchia. Lo so, commissario. Chi l'ha trovato? Due monnezzare alla Mannara dentro un'automobile. Ma mi mia Augello non c'è. No, commissario, è ancora in ferie. Ancora? Doveva tornare stamattina. Lo so, commissario, doveva tornare stamattina, però poi ha avuto un contrattempo. Vabbè, se senti, arrivo, tu intanto chiama Montelusa, dia alla scientifica di venire. Chiama anche Giudice Lo Bianco. Va bene, commissario. Devo andare. Fammi indovinare. Devi lavorare anche questo weekend, giusto? No, ma che dici? Salvo, vogliamo fare una scommessa. Livia, non fare la catastrofica, vada a vedere che è successo e torno. Quando arrivarono alla Mannara, la scientifica di Montelusa era già sul posto. Appena lo vide, Iacomuzzi, il capo, gli corse incontro. Ma com'è che non ci sono i giornalisti? Li ho voluti io. Che questa volta ti sparano che gli hai fatto bucare una notizia così. Buongiorno, commissario. Buongiorno, si fa per dire. Ma lo sai chi è morto? No, chi è? L'ingegnere Luparello. Sì. Ma lo sai com'è morto? No, non lo so, Iacomu, non lo so, non lo voglio sapere, lo voglio vedere da me, posso? Ah. Buongiorno, dottore. Come è morto? Guardi lei. Allora, è evidente, no? Lo sapeva che l'ingegnere era stato operato al cuore a Londra di recente? No. Gli avevano messo due bypass. Sinceramente non lo sapevo. L'avevo visto in televisione giorni fa, me ne sembrava in ottima forma. Voleva comparire in forma. In politica sono così, come i cani. Appena sanno che non puoi difenderti, ti azzannano. Quello che è successo qui è evidente. L'ingegnere si è voluto passare un capriccio e c'è rimasto. Non la convinco? No. Perché? Sinceramente non lo so nemmeno io. Senta, quanto mi dai i risultati dell'autopsia? Domani? Domani? Ma vuole scherzare? Prima dell'ingegnere c'è quella picciotta di 20 anni che hanno trovato nella discarica. Poi c'è Fofo Greco che hanno trovato... Parliamoci chiaro, quando mi fa avere questi risultati? Prima che posso. L'ingegnere era sempre stato un tipo elegante, estremamente curato in ogni dettaglio del corpo. Ora però era senza cravatta, la camicia stazzonata, gli occhiali per traverso, ma quello che più colpì il commissario fu la vista dei pantaloni abbassati fino alle ginocchia e il sesso oscenamente, sconciamente esposto, grosso, villoso, in completo contrasto con le minute fattezze del resto del corpo. Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Claudia Catani, Giovanni Guardiano, Peppino Mazzotta, Marcello Perracchio, Tullio Sorrentino, Bruno Torrisi. Musiche originali di Franco Piersanti. Realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicata da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.